No mi guardare così, no, no, no. Che mi hai conosciuto sabato e baby oggi è lunedì. No, no. Bevo un altro bicchiere che ti vedo in 2D. Sì, va bene, andiamo a cena, tatuaggi sulla schiena, penso già pogliana con la bocca piena, bionda bianca alta e nera, sale sopra una talera, e la sedia a Cartagena, Giro una canna di erba buona. Gioia, metti una canzone, che silenzio mi annoia. Si la chiamo baby, non la chiamo troia. Anche se a letto per un'altra storia. Ma poi queste tipe si innamorano. Dice dormiamo insieme, dico ancora no. Ma non sento niente anche se provano. Mi hanno iniettato dentro il cuore il torrido. No, ho il cuore rotto. Ehi, come lo schermo del tuo iPhone 8. Oh, dice mi piace che non fai lo stronzo. Scappo veloce, Michael Johnson. Perché vedi tutte quelle prima di te.